Quando la ragazza che tu amavi se ne andrà, capirai tante cose e non riderai di chi è solo come me. Quando solo resterai, tu piangerai pensando a lei e tremando chiederai se davvero c'è qualcun altro insieme a lei. Quando la ragazza che tu amavi se ne andrà, quando solo resterai. Che tu amavi tornerà quando la ragazza.